Sempre all'ascolto di Artemis Fati, abbiamo con noi una compagna di Anillos de Fuego, un collettivo siciliano. Ciao! Ciao! Ciao! Stiamo raccontando un po', come ti dicevo prima, le iniziative che le compagne hanno messo in campo per il 25 novembre. Voi ne avete fatta una singolare che a noi sinceramente è piaciuta molto, quindi ci andrebbe che la raccontasse un po' a tutte e a tutti. Sì, noi dopo un'assemblea insomma partecipata che abbiamo fatto verso il 25 novembre all'università, come gruppo insomma sia di ragazze del collettivo ma anche di studentesse universitarie che hanno partecipato a questa iniziativa, abbiamo deciso per quella giornata di declinarla insomma contro quello che era il seggio elettorale presente qua in città, per lo più puntato sulla questione che il centrosinistra ancora una volta ha piattato proprio nella giornata del 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'ha puntata nuovamente sui suoi interessi elettorali e sui suoi tornaconti, postando le primarie proprio in quella giornata. Quindi insomma alle 10 del mattino, così ci siamo dati un appuntamento, siamo arrivate davanti a questo seggio, tra l'altro nella parte più vissuta della città la domenica mattina, proprio nel centro, abbiamo aperto uno striscione con scritto "non contate sul nostro silenzio ma solo sulla nostra rabbia", lì insomma c'è stato qualche momento così di tapperugli insomma con questi qui presenti al seggio elettorale che non volevano che oscurassimo la loro giornata, insomma. Potevano sceglierne anche un'altra, ecco. Come? Potevano sceglierne un'altra. Infatti, appunto, dico, quindi ci hanno dato tra l'altro molta più visibilità perché la gente lì vicino ha cominciato a partecipare a questi asperugli contro loro che tra l'altro chiedevano 2 euro per votare, quindi insomma l'iniziativa è stata molto partecipata dalla gente anche lì vicino è conclusa dopo un'oretta che siamo stati lì davanti e si è sciolta insomma intorno a mezzogiorno circa. Sì, mi sembra un'iniziativa, cioè, sembrata molto interessante, anche un po' diversa dalle solite, che va a intercettare magari tutta una serie di persone che forse in queste giornate non si riescono a intercettare, anche perché il PD mi sembra che già la seconda volta che mette le primarie o no, è la prima il 25 novembre, totalmente ignorando che significato ha quella giornata per le donne, anche se magari non ci sono manifestazioni enormi o non ci sono folle oceaniche in giro per l'Italia, però è una giornata in cui le donne comunque si attivano, delle cose le dicono, si muovono e quindi insomma una giornata per noi importante, ecco. Poi le primarie del PD sinceramente veramente come evento politico veramente, cioè, hanno dimostrato ancora una volta la loro indifferenza, tra l'altro la volontà di surclassare quella che deve essere una giornata caricata di sicuramente altri significati e non i loro tornaconti elettorali, insomma, perché soltanto quello indicavano, la nicchia e i loro interessi. Insomma. Sì, senza ovviamente dire una parola su questa giornata, senza, no, non che ce l'aspettiamo, assolutamente. Quello figurati, però dico almeno evitare di piazzarsi proprio il 25 novembre lì in centro città, quando in realtà doveva essere una giornata appunto attraversata da contenuti completamente diversi, appunto quello della giornata contro la violenza sulle donne. Sì, infatti, ma vuoi raccontarci un po', magari noi ci siamo sentite l'ultima volta a marzo, mi sembra, il vostro collettivo che cosa fa, anche brevemente, per chi magari è la prima volta che ascolta la radio e che non vi conosce come noi magari? Sì, noi innanzitutto siamo il collettivo Anillo de Fuego, nasciamo innanzitutto dall'università, insomma, anche se siamo un gruppo di precarie, lavoratrici e studentesse universitarie, attraversiamo insomma quelli che sono i nostri contenuti, soprattutto devo dire la verità, negli ultimi mesi ci siamo concentrati moltissimo sulla violenza proprio fisica che è violenza contro le donne, soprattutto perché credo che vi ricordate anche il mese scorso qui a Palermo c'è stato l'omicidio di Carmela Petrucci, quella ragazza di 17 sì, anni sì, del liceo classico Umberto, insomma abbiamo attraversato quella giornata che poi ha portato ad un percorso anche all'università di dibattito con le studentesse che è maturato nel corso dei mesi proprio per queste violenze continue, queste insomma logiche di proprietà che sono arrivate fino a questi casi estremi come nel caso appunto di questa ragazza che aveva soltanto 17 anni. Quindi insomma è un collettivo che si sviluppa soprattutto all'interno dell'università e che cerca di maturare questi contenuti, che appunto ha deciso poi di attraversare la giornata del 25 declinandola secondo quello di cui abbiamo parlato, appunto di questo contenuto contro le primarie del PD. insomma, un collettivo anche attraversato quindi da donne abbastanza giovani, quindi questa cosa ci fa veramente tanto tanto sì, piacere. Per lo più sì. Ci fa veramente tanto tanto piacere. Io ti ringrazio tanto per il tuo racconto. Ovviamente qualsiasi iniziativa voi facciate, chiamateci, contattateci, noi sicuramente vi daremo voce. E grazie per questa giornata che avete organizzato, è veramente una bella idea, da dire che ci è piaciuta tantissimo. Grazie a te. Ciao allora. Ciao. A presto.